avanti, cazzo, buono, non è importante, non entra, io affanguarla, va. Adesso parlate col muro. Dillo a Tali, a Tali. Madonna, che scena. Oh, ma tra le che ho, tu